Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste e andremo avanti fino alle ore 21.30, trasmettiamo in diretta dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, ma andiamo con quella che è la sigla. Eccoci qui, questo è l'inizio della trasmissione Zardins Magnetics che va in onda su Radio Onde Furlane qui da Udine e il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Quella che avete sentito era la sigla iniziale che era Retribution dei Behind Enemy Lines e ora proseguiremo col programma fino alle ore 21.30. Andiamo ora all'ascolto di questa band belga, credo una delle band che hanno dato il via a quello che era il crust punk hardcore. Loro sono gli Hiatus, si erano formati alla fine degli anni 80 e questo è il loro album del 1993. che si chiama From Resignation to Revolt, Hiatus. Sì, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics e sia quelli in diretta che quelli in differita, che quelli che ascolteranno domani. E allora entriamo subito così un po' nel cuore delle faccende che proponiamo, delle letture, delle riflessioni che proponiamo questa sera, proponendovi appunto la lettura di alcuni brani di Simone Weil dalle riflessioni sulla guerra del novembre 1933. Il rischio, se non ci impegniamo in un serio tentativo di analisi, è che un giorno o l'altro la guerra ci sorprenda incapaci non solo di agire, ma persino di giudicare. Il metodo materialista consiste innanzitutto nell'esaminare qualsiasi fatto umano, tenendo conto, più che dei fini perseguiti, delle conseguenze che necessariamente comportano i mezzi utilizzati. Non si può risolvere e neanche soltanto porre un problema relativo alla guerra senza aver prima smontato il meccanismo della lotta militare, vale a dire analizzato i rapporti sociali che essa implica in determinate condizioni tecniche, economiche e sociali. Da una parte la guerra non fa che prolungare quell'altra guerra che si chiama concorrenza e che fa della produzione stessa una semplice forma della lotta per il predominio. Dall'altra, tutta la vita economica è attualmente orientata verso una guerra a venire. In questo inestricabile intreccio del militare e dell'economico, in cui le armi sono messe al servizio della concorrenza e la produzione al servizio della guerra, la guerra si limita a riprodurre in maniera esasperata i rapporti sociali che costituiscono la struttura stessa del regime. Allo stesso modo, la guerra ai giorni nostri si definisce in quanto subordinazione dei combattenti agli strumenti di combattimento e gli armamenti, veri eroi delle guerre moderne, sono, al pari degli uomini consacrati al loro servizio, retti da coloro che non combattono. E poiché questo apparato dirigente non ha altro modo di sconfiggere il nemico che costringere i propri soldati ad andare incontro alla morte, la guerra di uno Stato contro un altro Stato si trasforma in guerra dell'apparato statale e militare contro il proprio esercito. E la guerra si presenta in definitiva come una guerra condotta dall'insieme degli apparati di Stato e degli Stati maggiori contro l'insieme degli uomini validi in età da portare le armi. Se non che, mentre le macchine si limitano a strappare ai lavoratori la loro forza lavoro e i padroni come strumento di coercizione hanno solo il licenziamento, ogni soldato è costretto a sacrificare la sua stessa vita alle esigenze della macchina militare e vi è costretto con la minaccia di una condanna a morte senza appello che lo Stato tiene incessantemente sospesa sulla sua testa. A quel punto importa poco che la guerra sia difensiva oppure offensiva, imperialista o nazionale. Ogni Stato in guerra è costretto a usare questo metodo, dal momento che lo usa il nemico. Il grande errore di quasi tutti gli studi sulla guerra, errore nel quale sono caduti specialmente i socialisti, è di considerare la guerra come un episodio di politica estera, mentre costituisce innanzitutto un fatto di politica interna e il più atroce di tutti. Qui il punto non sono riflessioni sentimentali o un rispetto superstizioso della vita umana, ma un'osservazione molto semplice. che il massacro è la forma più radicale di oppressione e i soldati non si espongono alla morte, ma sono mandati al massacro. Come un apparato oppressivo, una volta costituito, sussiste finché non viene abbattuto, ogni guerra che fa pesare un apparato incaricato di dirigere le manovre strategiche sulle masse, che vengono costrette a servire da masse di manovra, deve essere considerata come un fattore di reazione, anche se a farla sono dei rivoluzionari. Quanto alla portata esterna di una tale guerra, essa è determinata dai rapporti politici stabiliti all'interno. Armi maneggiate da un apparato di Stato sovrano non possono apportare la libertà a nessuno. La guerra rivoluzionaria è la tomba della rivoluzione e tale resterà fin tanto che non si sarà dato modo ai soldati stessi, o meglio, ai cittadini armati, di fare la guerra senza apparato dirigente, senza pressione poliziesca, senza giurisdizione speciale, senza pene per i disertori. Eppure è su questa labile possibilità che occorre puntare o abbandonare ogni speranza. A maggior ragione, una guerra intrapresa da uno Stato borghese non può che trasformare il potere in dispotismo e l'asservimento in assassinio. Ai giorni nostri, la difficoltà che la guerra non fa che acuire è quella che nasce da una rivalità sempre più grande fra l'apparato statale e il sistema capitalistico. L'ultima guerra ha conferito ai diversi apparati di Stato una certa autorità sull'economia, mettendo in uso l'espressione assolutamente erronea di socialismo di guerra. Dopodiché il sistema capitalista si è rimesso a funzionare in maniera più o meno normale, a dispetto delle barriere doganali, del contingentamento e delle monete nazionali. In una prossima guerra le cose andrebbero senz'altro molto più lontano e noi sappiamo che la quantità è in grado di trasformarsi in qualità. In questo senso, la guerra può costituire ai giorni nostri un fattore rivoluzionario, ma solo a voler intendere il termine rivoluzione nell'accezione adottata dai nazionalsocialisti. Come la crisi, la guerra provocherebbe una viva ostilità contro i capitalisti e i capitalisti, e tale ostilità, favorita dall'unione sacra, tornerebbe a vantaggio dell'apparato statale e non dei lavoratori. Risulta quindi lampante l'assurdità di una lotta antifascista che assumesse la guerra come strumento d'azione. Non solo si finirebbe per combattere un'oppressione barbara schiacciando i popoli sotto il peso di un massacro ancora più barbaro, ma si finirebbe per estendere sotto altra forma di regime il regime che si vuole sopprimere. È puerile supporre che un apparato statale, reso potente da una guerra vittoriosa, si metta ad alleviare l'oppressione che esercita sul proprio popolo l'apparato statale nemico. Sembra che in genere la storia costringa sempre più ogni azione politica a scegliere tra l'aggravarsi dell'oppressione intollerabile che esercitano gli apparati statali e una lotta senza quartiere rivolta direttamente contro di essi per distruggerli. Certo, le difficoltà forse insormontabili che si presentano ai giorni nostri possono giustificare l'abbandono pure e semplice della lotta, ma se non si vuol rinunciare ad agire, bisogna comprendere che non si può lottare contro un apparato statale se non dall'interno, e soprattutto in caso di guerra bisogna scegliere tra l'intralciare il funzionamento della macchina bellica della quale siamo un ingranaggio e l'aiutare quella macchina a stritolare alla cieca le vite umane. La celebre espressione di Liebknecht, il nemico principale è nel nostro stesso paese, acquista così tutto il suo significato e si rivela applicabile a ogni guerra in cui i soldati sono ridotti allo stato di materia passiva in mano a un apparato militare burocratico, vale a dire, fin tanto che persisterà la tecnica attuale, a ogni guerra in senso assoluto. La società attuale somiglia a un'immensa macchina che risucchi incessantemente degli uomini e di cui nessuno conosca i comandi. E coloro che si sacrificano per il progresso sociale sono come persone che si aggrappano agli ingranaggi e alle cinghie di trasmissione per cercare di fermare la macchina, facendosi stritolare a loro volta. Ma l'impotenza in cui ci si trova a un certo punto, impotenza che non è mai da ritenere definitiva, non dispensa dal restare fedeli a se stessi, né giustifica la capitolazione davanti al nemico, indipendentemente dalla maschera che assume. E di qualunque nome esso si fregi, fascismo, democrazia o dittatura del proletariato. Il nemico principale resta l'apparato amministrativo, poliziesco e militare, non quello che ci fronteggia e che è nostro nemico solo in quanto lo è dei nostri fratelli, ma quello che si dice nostro difensore e fa di noi i suoi schiavi. In qualunque circostanza, il peggior tradimento possibile consiste sempre nell'accettare di sottomettersi a questo apparato e per servirlo di calpestare in sé, come negli altri, tutti i valori umani. Ride, ride, ride, ride, ride, ride. Bene, quelli che abbiamo ascoltato adesso sono i plurifamosi conosciuti Dead Kennedys, band statunitense che si era formata alla fine degli anni 70, e questa era una loro compilation uscita nell'87 che raccoglie ovviamente un sacco di, cioè quasi tutti i loro successi. E ora, che tra l'altro si chiama Give Me Convenience of Or Give Me Death, e questi appunto i Death Kennedys. Mentre prima, durante gli interventi, abbiamo ascoltato invece una band inglese della zona di Londra che si è formata nell'80, allora erano i Dirt, e i brani che abbiamo ascoltato erano presi da una loro compilation che raccoglieva quasi, cioè raccoglieva tutti i loro 60 brani che avevano inciso nei primi anni 80, ed era comunque un doppio album uscito nel 96. Bene, rimaniamo sempre con i Dead Kennedys. Sì, allora appunto Simone Weil diceva, se non si vuole rinunciare ad agire bisogna comprendere che non si può lottare contro un apparato statale se non dall'interno. Il nemico principale è nel nostro stesso paese. E ancora, bisogna scegliere tra l'intralciare il funzionamento della macchina bellica della quale siamo un ingranaggio e l'aiutare quella macchina a stritolare alla cieca le vite umane. E così queste parole evocano un po' la situazione che si è vissuta qua in città, a Udine appunto nello scorso fine settimana, durante la adunata delle forze armate chiamate Alpini, e appunto questa insomma adunata che ha messo in evidenza, diciamo, che cosa significa un'occupazione militare della città, un'occupazione militare diciamo accettata passivamente dalla maggior parte della popolazione, e anche che cos'è una ha dato ben l'idea, per come la vedo io, di che cos'è questa macchina bellica che stritola le coscienze anche. Ne abbiamo parlato un po' anche lo scorso giovedì, ad un esempio proprio molto così eclatante, anche sconvolgente di questo stritolamento delle coscienze, era dato dalla, appunto, dalla cittadella, questa cosiddetta cittadella situata nel parco Moretti, blindato per l'occasione, appunto, che si potrebbe dire che questa cittadella era il vero volto, diciamo, della Dunata, nascosto appena così un po' si è nascosto dalla maschera goliardica della retorica del buon alpino. Difatti, proprio dentro questo campo militare blindato si assisteva all'elogio della tecnologia e del progresso sotto forma di armi e mezzi di guerra. Venivano proposte gite scolastiche in questo stesso parco, addirittura a bambini delle elementari, e passeggiate tra macchine di morte di ogni tipo. E anche in una maniera così, appunto, totalmente alienata, diciamo, dalla finalità che queste macchine di morte perseguono, e cioè appunto la morte. Ecco, insomma, in tutto questo grande macchinario, grande armamentario, appunto, di distruzione, non è mancata anche la parte repressiva, diciamo, della Tre Giorni. E è successo, appunto, che sono state tre compagne sono state fermate e tenute in fermo di polizia per un bel po' di ore notturne, senza tra l'altro poter chiamare l'avvocato. E le stesse compagne sono state denunciate con l'accusa di imbrattamento e vilipendio per degli adesivi di protesta contro la Dunata degli Alpini e la militarizzazione generalizzata della città, ma non solo della città di Udine, della società in generale. Ecco, allora chiaramente noi diamo assolutamente totale solidarietà a queste compagne, e solidarizziamo anche con tutti i soggetti che sono riusciti a disertare l'occupazione militare della città e che hanno avuto il coraggio di esprimere il proprio dissenso, la propria contrarietà, il proprio disagio, in qualsiasi forma l'abbiano fatto. E vabbè, ribadisco, insomma, la solidarietà alle compagne, e daremo aggiornamenti anche su come evolve la situazione. Bene, stiamo ascoltando questa band austriaca, loro sono i Fuck Sorry, una band che si è formata recentemente. Questi brani che stiamo ascoltando sono tratti dall'album Eat Shit ed è uscito l'anno scorso nel 2022. Così, particolarità che supporti d'ascolto sono, cioè, le loro due versioni di questo album sono demo tape, proprio la cassetta vecchio stile dei decenni passati, oppure in MP3 scaricabile dalla rete. Comunque loro sono i Fuck Sorry. Siamo ancora all'ascolto di, come ho già presentato prima, questa band austriaca della zona di Vienna. Loro sono i Fuck Sorry ed è una band di recente formazione, cioè si sono proprio formati recentemente. Questo è il loro primo ed ultima uscita del 2022. Yeah. E dunque il carcere uccide, purtroppo questa è una realtà sì, indubitabile, sotto gli occhi di tutti. E questa sera parliamo di due morti, due morti recenti, due prigionieri che sono morti mentre stavano facendo lo sciopero della fame e si trovavano nel carcere di Augusta, nel Siracusano. E, allora, un prigioniero era un uomo siciliano, ergastolano, che si era messo in sciopero della fame e non ha, appunto, il suo sciopero della fame è durato 41 giorni prima che le sue condizioni si aggravassero e quindi lui morisse, e perché riteneva di essere vittima di un errore giudiziario. E l'altro prigioniero invece è un uomo, un russo, che ha digiunato per 60 giorni, e anche lui ergastolano, e praticamente lui invece chiedeva ormai già dal 2018 di venire estradato nel suo paese d'origine, la Russia, per scontare la pena là e non qua. E, allora, questa cosa terribile, insomma, di due morti lasciati morire così, senza, nel silenzio generalizzato, e, sì, è un fatto chiaramente molto grave, e tra l'altro ha aperto a tutta una serie di strumentalizzazioni. Allora, da un lato i vari sindacati delle guardie penitenziarie che approfittano, non colgono l'occasione, insomma, per fatti di questo tipo, lamentarsi che loro sono abbandonati, che loro devono gestire la complessità, quindi praticamente mettendosi loro in in evidenza, e quindi strumentalizzando in realtà, insomma, queste morti, che sono morti dovute anche al disinteresse, al menefreghismo dell'istituzione carceraria. Dall'altro lato anche diciamo i garanti, mi riferisco al garante nazionale che si è espresso su questa situazione, e diciamo si scandalizzano, però in realtà si stenta a credere che non sapessero di questi scioperi della fame, quindi in realtà pure loro si lavano le mani. Ricordiamo che tra l'altro il garante nazionale, anche per l'altro prigioniero, questa volta in 41 bis, che è Domenico Porcelli da Bancali, che appunto anche lui è in sciopero della fame, per questa, anche per questo prigioniero che ha intrapreso questa forma di lotta, non ha mosso un dito, ha solo mandato una posta certificata, per dire, all'amministrazione penitenziaria, perciò insomma. E, salvo poi però, così tra le righe, fare come un po' di osservazione, diciamo, cioè dire: ah sì, se ci sono i prigionieri che in qualche maniera diventano celebri, come Alfredo, intorno al quale si è appunto attivata una mobilitazione importante, nazionale e internazionale, e poi ci sono queste altre realtà invece, insomma, di abbandono, e appunto di persone che si trovano a morire di fame sono nelle mani dello Stato, e si trovano a morire di fame mentre sono nelle mani dello Stato, senza che nessuno sappia niente, nessuno faccia niente. Allora è importante dare sostegno, insomma, a tutti i prigionieri che intraprendono forme di lotta all'interno delle galere. E tra l'altro lo spirito dello sciopero della fame di Alfredo è proprio questo, cioè quello di rompere assolutamente qualsiasi silenzio, isolamento su queste faccende, e appunto non fare distinzioni tra prigionieri politici e non politici, diciamo. Chi lotta per la sua vita, per la sua sopravvivenza e per la sua vita all'interno delle istituzioni totali, comunque va in tutti i modi sostenuto. E su queste faccende tra l'altro dei prigionieri morti mentre stanno facendo lo sciopero della fame, purtroppo non è una cosa solo di quest'anno. e solamente, diciamo, negli ultimi 3 anni sono successi in Italia anche altri fatti, e sempre ci sono stati dei morti nella più totale indifferenza. Un caso, diciamo, molto eclatante è quello di un prigioniero che si chiama Carmelo Caminiti, si chiamava Carmelo Caminiti, che è morto nel 2020 dopo 60 giorni di sciopero della fame, e è finito in coma, e una notte di settembre del 2020 è espirato. Allora, questo Carmelo Caminiti era un detenuto in attesa di giudizio presso la casa circondariale di Messina. Era stato arrestato nel 17 a Firenze, a maggio 18 gli avevano concesso i domiciliari per le gravi patologie di cui era affetto, tra cui il diabete, la stenosi e i canali atrofizzati, venosi atrofizzati, eccetera, e per tra l'altro patologie per le quali gli era stata riconosciuta la invalidità civile, se non che diciamo che viene riarrestato, cioè dai domiciliari passa di nuovo alla galera su ordine, nel 2018, su ordine della procura di Reggio Calabria. E insomma, va avanti il tempo, gli arriva un ulteriore mandato di cattura nel 2019 e viene infine trasferito al carcere di Messina, al centro clinico. Durante l'emergenza Covid-19 gli avvocati presentano istanza in quanto si trattava di un soggetto ad alto rischio, però allora, e succede questo, che i tribunali di Firenze e di Reggio Calabria, sulla base della relazione medica del carcere di Messina, cioè del dirigente sanitario, riconoscono l'incompatibilità della sua condizione con il carcere. Però invece il tribunale di Brescia, pur riconoscendo le gravi patologie, rigetta l'istanza e non concede i domiciliari, perché gli dà l'aggravante del metodo mafioso. Vabbè, senza entrare poi più di così nel dettaglio della vicenda specifica giudiziaria di questa persona, appunto, morta nel 2020 mentre faceva lo sciopero della fame, è significativo questo meccanismo, questa dinamica che si crea, cioè di, ad esempio, in questo caso, due tribunali che definiscono la condizione di un detenuto incompatibile col regime carcerario per gravi motivi di salute, un altro tribunale che sulla base delle stesse carte dice no, la sua condizione è compatibile con il carcere. Quindi in questo palleggiamento, diciamo, di responsabilità, il prigioniero si trova abbandonato e disperato, e appunto questo Carmelo Caminiti nel 2020 inizia questo sciopero della fame e della sete perché ritiene di essere vittima di un sopruso, però nessuno ascolta la sua protesta e quindi muore. E precedentemente era successo anche ad altri due prigionieri, Salvatore Meloni nel 2017 e Gabriele Milito nel 2018. Ecco, questi prigionieri non avevano delle patologie così gravi, ma erano molto anziani, quindi erano in una situazione per cui ritenevano di non ce la facevano più, insomma, stare dentro. Ecco, quindi questo volevamo dirvi, insomma, è importante non diciamo affievolire l'attenzione verso il discorso delle condizioni carcerarie e anche verso le lotte, tutte le lotte, insomma, anche le più piccole, le più, oltre a queste, diciamo, molto forti e molto estreme dello sciopero della fame, anche le lotte più, le rivendicazioni e le lotte più piccole. È importante non dimenticarsi e non abbandonare i detenuti al loro destino. Allora, finalmente un saluto anche da parte mia, chi ci sta ascoltando, per questa puntata del 18 maggio di Zardins Magnetics. Per chi magari si è collegato adesso, ha acceso la radio magari o lo streaming. Dunque, e dopo tutto queste parole sulla guerra e sul carcere, non cambiamo molto l'argomento, rimaniamo sulla questione delle strategie che gli apparati e chi li gestisce rivolgono contro la popolazione, diciamo, contro chi quelli che costituiscono questi apparati, no? Contro tutti quelli siamo noi, diciamo, al di là della classe, sto parlando adesso. Ovviamente anche la classe compresa. E abbiamo messo nella presentazione, così nell'anticipazione della puntata, diagrammi della vita come strategia controinsurrezionale, e riferimento a una notizia reperita da un canale Telegram che si chiama Miracolo a Milano. È un canale, diciamo, Novax, non di destra, se così si può esprimersi. Allora, città di Caorle, cittadina turistica della riviera del Veneto orientale, pochi chilometri da Udine, diciamo a un'ora di macchina da Udine, per chi ci ascolta da vicino. Quindi cittadina paragonabile o grado Lignano, ecco, per capirsi con gli ascoltatori e le ascoltatrici friulane. Allora, 5 maggio, mi sembra inizio di maggio, adesso indifferente, 4 maggio, il comune di Caorle comunica che è stato presentato ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alla stampa Pelta Suite Software, che permetterà l'analisi predittiva dei reati. Non solo, quindi, non sto a leggere il comunicato del comune, comunque non solo quindi si tratta, ecco, adesso andiamo nel merito. Abbiamo un'amministrazione qui a Caorle molto sensibile al tema della sicurezza, spiega il direttore di questo ente Sicurezza Urbana Integrata. Pelta Suite si presta particolarmente alla personalizzazione degli eventi negativi. È possibile inserire quelli che potrebbero interessare particolarmente la località di Caorle, dai rumori molesti agli assembramenti, dai rifiuti ai furti e così via. Il software, lo dicono espressamente, non tratta i dati personali, ma semplicemente attraverso una scansione continua del territorio, resa possibile dai dati che verranno continuamente inseriti dalla polizia locale e dall'algoritmo, diminuirà la probabilità, secondo loro, del verificarsi determinati eventi, in quanto gli agenti, conoscendo in anticipo il fatto che potrà verificarsi, potranno vigilare maggiormente la zona. Allora, in parole povere, loro adesso non andranno a fare i posti di blocco a Caorle in modalità random, pressoché random, come succede, è successo fino a oggi, ma con questa sperimentazione un algoritmo indicherà, diciamo, gli spot del territorio dove è il momento della giornata o la giornata nell'ambito dell'anno in cui è verosimile che si dia un determinato, diciamo, comportamento, non si parla di reati, di comportamenti, eventi negativi li chiamano addirittura, no? Eccetera, eccetera, la presentano come appunto al fine di spostare il costrutto strategico dell'azione di controllo da una visione riparatoria del danno, che è già, dici, apro io parentesi, è già una visione progressista, no? dell'azione repressiva, da una visione riparatoria del danno, tipico della permanente emergenza, a una visione che lavora sugli schemi della prevenzione. Per prevenire bisogna prevedere, e oggi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale è possibile arrivare a svolgere analisi predittive che consentono di applicare il controllo non più in maniera random, appunto dicevo prima, ma nel posto e nel momento di maggior rischio, ottenendo il duplice risultato: più sicurezza per i cittadini e minore spreco di risorse ed energie. Gli agenti di servizio non dovranno far altro che scorrere la mappa, soffermarsi nei punti indicati con un differente colore, leggere tutte le informazioni relative agli eventi, vado veloce, che il software prevede, si realizzeranno nei successivi 30-60 minuti. E in questo modo le forze dell'ordine sapranno come impiegare le risorse, non solo nel breve periodo. Grazie alla funzione offerta dalla piattaforma relativa all'evoluzione del rischio nei successivi 7 giorni verranno fornite informazioni importanti anche per la valutazione delle risorse da impiegare nel lungo periodo. Un'altra funzione riguarda il tool completamente dedicato al Covid-19 per prevenire assembramenti e mappare i contagi, i relativi contatti. Attualmente l'algoritmo è in fase di sperimentazione, eccetera, eccetera. Questa era appunto una notizia comparsa anche sul Gazzettino online, dicevo prima, quindi una sperimentazione in una città turistica, quindi insomma non è proprio come sperimentarlo a Faedis. Ci sarà un grande afflusso di persone come ogni anno in questa cittadina e verranno archiviati, schedati, insomma, archiviati con un principio di archiviazione totale, non solo appunto del nominativo, anzi paradossalmente il nominativo è quello che a loro interessa di meno, perché ormai si va a, il punto non è il nome e il cognome, dove abita, il punto è cosa fa, dove e quando. Quindi questo qua è importante, insomma, secondo me era una cosa significativa, ma come lo sono tante cose significative comunque, perché era un'idea questa del poter fare la cartografia dell'esistenza, era un'idea, diciamo, delle discipline sociali di, diciamo, una visione di apertura in confronto a quello che erano i dettami, insomma, quantitativi, comportamentistici, diciamo adesso alla maniera così alla buona, delle discipline come erano, diciamo, qua quando sono diventate queste discipline, sono diventate, hanno conquistato anche le istituzioni, ecco, sono entrate nelle istituzioni, questa, la sociologia e la geografia in tutte le sue così, declinazioni, erano delle scienze esatte, diciamo, virgolette, esatte, quantitative, strutturate in certa maniera. Invece chi ha cominciato a mettere in discussione questo paradigma era appunto come ad esempio questo geografo svedese che si chiamava Torsten Hagerstrand, da cui appunto si prende quest'idea di cartografia dell'esistenza. Lui appunto aveva pensato che si potesse fare su scala spaziale una simulazione dinamica di quello che un individuo viveva, e quindi risalire dall'individuo, dagli eventi che attraversavano l'esistenza di un individuo, lo spazio, cioè nella storia e nel contesto spaziale, nella dimensione spaziale, e risalire quindi anche da lì alle pratiche sociali dei gruppi, anche ai grandi aggregati, attraverso appunto delle simulazioni quella volta non si chiamavano ancora algoritmi, non c'era la potenza di calcolo che hanno i macchinari di oggi, però lui aveva già intravisto, e questa non era da parte sua, diciamo, un contributo al controllo e all'oppressione dei cittadini. Era un tentativo di dare una svolta, di uscire dalle gabbie, ripeto, gabbie strutturate, quantitative, sì, dai numeri, diciamo, dalla statistica, quella proprio sì, che non si può cambiare, diciamo così. E quindi lui aveva questa idea, questa utopia di scrivere la pragmatica degli eventi con questi grafici anche complicati, un orientamento appunto di nuovo sull'individuo piuttosto che sulle rappresentazioni collettive, che era appunto un portato di chi lo aveva preceduto, e poi diventava più accurata la descrittività della scienza della geografia, diventava molto più accurata perché si aggiungevano questi schemi complicati, e poi comunque c'era un'idea guida di convivialità, di etica, appunto, di uscire dalle grandezze oggettive in geografia e di poter trovare un linguaggio comune non solo a comunità diverse, anche a sì, non solo ad individui distinti, ma anche a comunità differenti. Purtroppo invece siamo su un altro tipo di china, e questa schematizzazione della vita appunto diventa non più una cartografia, ma una schematizzazione, appunto, dove combinare il dove, il quando, il cosa, un ribaltamento crudele di questa utopia di Hagerstrand. È appunto un piano generale di sorveglianza armata, sì, un piano anche di si diceva anni fa, avevamo parlato, mi ricordo una puntata di Zernis Magnetics, dove si era fatto un'intera puntata sui droni, sulla teoria del drone, e così anche su questo come si chiamava, idea di poter catalogare intere popolazioni grazie appunto alla potenza di calcolo che sempre di più hanno e avranno i calcolatori. Just the two of us. Oggi incontro la particella nucleare, mi veniva incontro un sorriso smagliante. Io la salutai, ma lei andò zitto. Questa particella me la stava nel seguendo, non figurando una freccia nella sua suola. Però gli enti erano tanti, erano tanto, tanto incantate. Le braccia delle ate individuate, furono la sua particella diventate. Cercando di disciogliere, di sciogliere, di eliminare. Ma non andatevi, siamo tutti uscirà. Mi son fatto ieri sera, sembra di sentire ancora il tuo cazzaggio mese. Sei stato pure tiro la sua carmagna in malese. Mi sa che ho sboccato nella pattugliera. Dentro provanzano i famici gira tutto intorno. Oggi pomeriggio c'è la... E stiamo ascoltando questa band pavese, dell'area insomma lombarda di Pavia, e loro erano i DDI, band italiana, ovvero una band che l'acronimo stava per Degenerazione d'Incubo, band che si è formata a metà anni 90. Questo è il loro album che è uscito nel 1996, Pazzi da Asporto, DDI. Ma che come grattare se morino aspirina, mi sa che non mi fa questa mattina aspirina, preferirei una dose di morfina. Non ho voglia di lavorare, soprattutto se un padrone dice cosa devo fare. Preferisco suonare un pacco di assi, anche se non sono capace. E non ho voglia di lavorare, mi piacerebbe vivere senza faticare. Voglio un amplificatore con cono sfondato, per quello che non lo passo cordato. Proprio non voglio lavorare, ma sono costretto, se no sono stessamente. Quando vado in fabbrica e vedo una festa, mi ispira una canzone proprio come questa. Piace suonare davanti alla gente, faccio casino, rumore, bordello. Ma credimi, al mondo non c'è niente di più bello. Però sono un direttante ferme, il pentagramma è un disegno stravagante. Forse hai ragione, non faccio del rumore, ma ci metto tutto il mio cuore. Penso che ti invidio, sei così felice, non riesco a provare odio. La tua vita è un'allegria, che tutto ciò che vedi pensi tuo di diritto sia. Ogni tua giornata è laboriosa ed ogni tua mattina è luminosa. Esistenza è comune e sicura, ti mi ritagliato e le tue quattro mura. Non te ne frega un cazzo di quel che accade intorno, ci pensi qualcun altro e io guardo sul bordo. Siccome un automa la male fino a sera, vivi la tua vita, per me è una galera. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Ciò che conta è la scala sociale, io sono convinto che niente è più banale. Hai una promozione, tutto ciò che aspiri, hai una bella macchina, al mondo che ti avviri. Ora me ne accorgo, ho detto una sfottata sul fatto che ti invidio, meglio una fucilata. In TV le guerre ti passano davanti, non è che giochi a premi che sono proprio tanti. Tutti via davanti al tuo televisore, voglio essere comandato, voglio un direttore. Sei capire se orgogliosa lascia molto da pensare. Già pensi male, vorrei vedere la figlia arricchita di quinto sguardo, presa agli animali, appese ai ganci e ai miei principali, di fatto il giro quanto di te. Costringe a ammazzare un cadavere da indossare, Annabella criminale, Annabella criminale, per me nel costo di Annabella un tumore da stirpare, da eliminare, lo brucerò sulle rovine, spargerò sacco di sale, come finale, per le signore, senza stare a bisogni, prepareremo, poi mi ha dato un costume, un vestitino, di cadavere e piume, e che non rompano i coglioni. Ammazzare un cadavere da indossare, Annabella criminale, Annabella criminale. Sì, e quasi in conclusione di Zerniz Magnetics per stasera, e diamo così un po' di appuntamenti contro la guerra. Allora, intanto il 27 maggio ci saranno due cortei, uno a Busto Arsizio, organizzato dall'Assemblea Popolare di Busto Arsizio, corteo che partirà da Piazza Garibaldi, corteo contro la guerra, dall'emergenza pandemica all'emergenza bellica, il passo è stato breve, quindi l'impostazione è chiara. Poi sempre il 27 maggio ci sarà un altro corteo contro la guerra a Trento, con partenza alle ore 15 da Piazza Dante, per una mobilitazione internazionalista dal basso contro ogni invio di armi, per imporre il cessate il fuoco in Ucraina, per contrastare attivamente l'economia di guerra. E poi il 2 giugno invece a Roma, niente da festeggiare, corteo contro guerra e repressione, alle ore 10 Piazza dei Consoli. Tra l'altro il corteo partirà appunto da un luogo, da una piazza che si trova nei pressi del comando operativo di vertice interforze contro guerre, miseria, controllo sociale, repressione, devastazione ambientale, razzismo, violenza patriarcale. E a livello invece qui locale, a Trieste, coordinamento No Green Pass e oltre, Alister, Associazione per la Libertà di Scelta Terapie Mediche, promuove tre iniziative. Sabato 20 maggio, presidio in largo barriera alle ore dalle 10 alle 13 per una mobilitazione popolare per la pace in Ucraina. Sabato 20 maggio, ripeto, in largo barriera, Trieste. Il 27 maggio un altro presidio in Piazza della Borsa, sempre ovviamente a Trieste, dalle 10 alle 13 per diciamo convergere a venerdì 2 giugno in un corteo che partirà da Piazza Volontari Giuliani a Trieste dalle 10.30. E, diciamo basta la deriva bellicista e guerrafondaia che arricchisce le lobby produttrici di armi, distogliendo preziose risorse dalla scuola, dalla sanità, dalle misure di sostegno sociale, di incentivo al lavoro e di miglioramento salariale. Scendi in piazza con noi, fermiamo la guerra. Ritorneremo ovviamente nelle prossime settimane su queste iniziative del coordinamento No Green Pass e oltre di Trieste. Per il momento mi sembra che è tutto. Oh, Stiamo ascoltando in sottofondo adesso, comunque ascolteremo fino credo alla fine della trasmissione, che è quasi giunta al termine, questa band inglese, loro sono i Conflict, storica band dell'anarcho-punk dei primissimi anni 80, anche se poi la band effettivamente ha un po' sempre continuato ad esistere. E questo è un loro album che, così se vogliamo dire, ha fatto storia, è un album live che si chiama Turning Rebellion into Money, e ha fatto storia perché è uscito nel 1987, un doppio album di un, appunto, di questo concerto, che ha la particolarità che ha partecipato anche come seconda voce, se vogliamo dire seconda voce, Steve Ignorant, che era il cantante dei Crass, e questo concerto si era effettuato subito dopo lo scioglimento dei Crass, altra storica band dell'anarcho-punk inglese ma anche a livello internazionale. Altre cose che prima di concludere la trasmissione, che prima abbiamo presentato i DDI, band di Pavia degli anni 90, e in precedenza avevamo ascoltato una band spagnola che si è formata nel 2010, i Belgrado, ed è una band post-punk. Che altro dire, siamo proprio col minutaggi proprio al limite. Questa trasmissione è da Dance Magnetics, ogni giovedì siamo in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. La trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, e vi diamo i nostri consueti contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, potete farlo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org. potete anche scriverci direttamente alla casella postale, che intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto anche questo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, chi volesse riascoltare questa trasmissione ma anche tutte quelle avvenute nelle settimane scorse, potete andare in rete e cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. e ci salutiamo anche chi ci ascolta domani pomeriggio dalle ore 17 sulla web radio Radiazione, domani venerdì. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Vi lascio ancora con un ultimo brano per questi Conflict, live da questo doppio album che si chiama Turning Rebellion into Money. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. fight on. Still, we can beat them. We will win.